You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta alla trasmissione di Radio 24 che prende il nome da questo film che avete sentito come sempre all'inizio, Indovina chi viene a cena, film che si occupava di integrazione, pregiudizio, di razza, tanti anni fa in America e noi adesso abbiamo a che fare con tutt'altri problemi e questa sera a cena a Radio 24 abbiamo un graditissimo ospite, Karim Metref, buonasera. Buonasera a voi. La presentiamo, è un blogger, un attivista, viene dall'Algeria, dal centro nord dell'Algeria e si è trasferito a un certo punto in Italia nel 98, si è trasferito in Italia, a Torino e poi ci racconterà magari come mai. Ha lavorato come formatore, operatore su progetti educativi, scrive su diverse testate internazionali, Peace Reporter e Babel Med. E lo abbiamo invitato questa sera a cena a Radio 24 perché subito dopo gli attentati a Parigi ha preso una posizione interessante, abbastanza controcorrente anche, mentre si sentiva levare continuamente la frase «Je suis Charlie Hebdo», lui, pubblicando una risposta alla scrittrice Hijab Ashego, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, scrittrice italo-somala musulmana, che aveva pubblicato su Internazionale uno scritto «Non il mio nome», lui ha risposto, ha parlato a suo nome marcando una differenza. Ne parleremo con lui, parleremo anche di Algeria, di temi che lui stesso affronta nel suo blog con una voce davvero a volte irriverente, comunque non conformista e che trovo molto interessante. Ma prima di tutto sentiamo proprio in questa scheda che abbiamo registrato qual è la sua posizione, cosa ha scritto per Internazionale all'indomani degli attentati di Parigi. Cara Hijaba, in questi giorni saremo messi sotto torchio e le prossime campagne elettorali saranno fatte sulla nostra schiena. Gli xenofobi di tutta Europa vanno in brodo di giuggiole per la gioia e anche gli establishment europei che non hanno risposte da dare per la crisi saranno contenti di resuscitare il vecchio spauracchio per far rientrare le pecore spaventate nel recinto. Da ogni parte ci viene chiesto di dissociarci, di scrivere che noi stiamo con Charlie, di condannare, di provare che siamo bravi immigrati, ben integrati, degni di vivere su questa terra di pace e di libertà. Ebbene, anche se ovviamente condanno questo atto come condanno ogni violenza, non mi dissocio da niente. Non sono integrato e non chiedo scusa a nessuno. Io non ho ucciso nessuno e non c'entro niente con questa gente. Altrettanto non possono dire quelli che domani dichiareranno guerra a qualcuno in nome di questo crimine. Tu dici, oggi mi hanno dichiarato guerra, decimando militarmente la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, mi hanno dichiarato guerra. Hanno usato il nome di Dio e del profeta per giustificare l'ingiustificabile. Da afro-europea e da musulmana io non ci sto. Io con questa gente sono in guerra da 30 anni. Li affrontavo con i pugni all'epoca dell'università e con le parole e con le azioni da allora e fino a oggi. Sono 30 anni che li combatto e sono 30 anni che il sistema della NATO e i suoi alleati li sostengono regolarmente ogni 10 anni per fomentare una guerra di qua o di là. Anche io sono afroeuropeo. Sono originario di un paese a maggioranza musulmana, ma non mi considero un musulmano. Non sono praticante, non sono credente, ma anche io non ci sto. Non ci sto con questi folli, non ci sto quando lo fanno a Parigi, ma non ci sto nemmeno quando lo fanno a Tripoli, Malula o Karakush. Non sto con loro e non sto con chi li arma un giorno e poi li bombarda il giorno dopo. Non ci sto in questa storia nel suo insieme. E non solo quando colpisce il cuore di questa Europa costruita su valori di convivenza e pace. Perché dico che questa Europa deve essere costruita su valori di pace e convivenza anche altrove, non solo internamente, ammesso che internamente lo sia. Tu dici che questo non è Islam. Io dico che anche questo è Islam. L'Islam è di tutti, buoni o cattivi che siano. E come succede con ogni religione, ognuno ne fa un po' quello che vuole. La adatta alle proprie convinzioni, paure, speranze e interessi. Nelle prossime ore i comunicati di moschee e centri islamici arriveranno in massa, non ti preoccupare. Tutti o quasi, giustamente, si dissocieranno da questo atto criminale. Qualche altro Abu Omar sparirà dalla circolazione per non creare imbarazzo a nessuno. La Lega e altri avvoltoi si ciberanno di questa storia per mesi, forse per anni. E noi ci faremo di nuovo piccoli piccoli, in attesa della fine della tempesta. Come stiamo facendo dopo questi attentati, forse commessi da quella stessa rete che la NATO aveva creato per combattere una sua sporca guerra. Loro creano mostri. E poi, quando gli si rivoltano contro, noi dobbiamo chiedere scusa, dissociarci e farci piccoli. A me questo giochino non interessa più. Non chiedo scusa a nessuno e non mi dissocio da niente. Io devo pretendere delle scuse. Io devo chiedere a questi signori di dissociarsi definitivamente, non ad oltranza, da questa gente. Amici in Afghanistan e poi nemici, amici in Algeria e poi nemici, amici in Libia e poi non ancora nemici lì, ma nemici nel vicino Mali, amici in Siria, poi ora metà amici e metà nemici. Io non ho più pazienza per questi macabri giochini. Mando allo stesso inferno sia questi mostri, sia gli stregoni della NATO e dei paesi del Golfo che li hanno creati e li tengono in vita da decenni. Mando tutti all'inferno. E vado a farmi una passeggiata in questa notte invernale che sa di primavera. Speriamo non araba. Allora, Karim Metref, parole pesanti all'indomani di un attentato forte e un altrettanto forte mobilitazione, no? Mi rendo conto che sono parole pesanti e ci ho riflettuto un attimo prima di pronunciarle, perché si fa presto a essere accusati di essere, in questi tempi, di essere una cellula dormiente di Al-Qaeda o di cose di questo genere. Però ho ritenuto che era ora di dire anche delle cose che escono dai cori di tifoserie create ad arte ogni volta che succede qualcosa di questo genere. Non mi dissocio, non perché questo atto lo ritengo giustificato in qualche modo. Io non ritengo assolutamente che quelli di Charlie siano cercata, o non ritengo assolutamente che qualcuno meriti la morte per qualsiasi ragione. Sono anche contro la pena di morte, figuriamoci se sono per l'esecuzione a freddo di giornalisti che non hanno fatto altro che usare la penna. Però ecco, io non ho ucciso nessuno e quindi non accetto di essere messo sul banco di accusa insieme a questa gente. Insieme a questa gente che chi oggi ci chiede di scusarci, pochi mesi fa, ancora i governi occidentali, ancora li trattavano da combattenti per la libertà e gli fornivano armi, soldi e addestramento. Lei crede, insomma, allora, che ci sia una grande ipocrisia intorno a questo dissociarsi, ma poi allo stesso tempo rifornire? Sì. C'è una grande ipocrisia, ci sono grandi manipolazioni. C'è un gioco che si rifà periodicamente da 40 anni, una volta finché fanno comodo questa gente incoraggiata, e quando ci si stanca di loro, si entra in guerra e noi in qualche modo abbiamo sempre chiesto scusa. Io credo che noi dobbiamo affrontare senza paura quelli che sono i mali interni alle nostre società, e io l'ho sempre fatto, non ho mai avuto paura dei barbuti, come li chiamo io. Però dobbiamo anche in qualche modo rimandare, non parlo della popolazione, ma parlo dei governi occidentali, alla loro profonda ipocrisia, al loro profondo cinismo. Lei dice che le prossime campagne elettorali si faranno sulla nostra schiena. Già in corso la campagna elettorale. Insomma, i movimenti di estrema destra di tutta Europa sono, insomma, si sono tutti scoperti amanti, amosi di questa Charlie Hebdo, che nasce come una realtà anarchica, libertaria, che è proprio agli antipodi di quello che può essere un Le Pen o di quello che può essere un Matteo Salvini. O una persona come la Santanchè si dichiara di voler pubblicare Charlie Hebdo in Italia, è una seconda morte per Charlie Hebdo, insomma, questo. Come si ci ne esiste pa, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, come mai a un certo punto ha deciso di venire in Italia? È stata più per ragioni personali, che non sono né esuli politico, né, insomma, sono partito per delle, in realtà la situazione più drammatica dell'Algeria, che è stata la guerra degli anni 90, l'ho vissuta quasi tutta, cioè almeno le ore più dure sono stato in Algeria. Sentivo una certa stanchezza, una certa delusione per delle lotte politiche, della lotta per il riconoscimento dei diritti culturali dei berberi, eccetera, che si stavano esaurendo, che erano stanchi, che erano diventati un po' deludenti. Senta, poi sono arrivato in Italia perché c'era di mezzo anche una storia d'amore, quindi... Ah, beh, ecco, questo è giusto, così. Insomma, è un bel motivo per spostarsi. Ho letto che lei spesso fa riferimento a suo nonno, ci racconta qualcosa di lui? Mio nonno mi ha insegnato a fare quello che ho fatto per esempio questa settimana, a non stare mai dalla parte del... a non seguire mai, insomma, la corrente maggioritaria, non stare zitto di fronte alle ingiustizie, a non essere conformista, a non conformarsi, ecco. Sì, esatto, alle opinioni a non conformarsi altri. Mai rispettare, sì, ma conformarsi lei no. Era un po' circondato, no. Lei era un po' circondato, dicevo, da insegnanti, perché anche suo padre poi era insegnante, no? Mi colpisce molto nei suoi scritti la sua riflessione sulla scuola, perché lei dice appunto: mio padre e mio nonno, mi dica se sbaglio nel riassumere velocemente il suo pensiero, hanno insegnato in una scuola, insomma, che imponeva un po' dall'alto le sue direttive, le sue insegnamenti, che era fatta appunto di insegnamento per lo più, mentre lei, quando è arrivato a scuola, ha trovato e ha fatto una scuola un po' diversa, no? Che però poi sì. Lei fa una riflessione anche interessante, questa scuola multiculturale, leggo un passo, no? Dice: mentre fuori i media soffiavano sull'odio e sulla paura del diverso, a scuola si facevano le danze africane, le cene a base di couscous. Oggi, con l'esperienza, ma anche guardando la società e i giovani, penso che abbiamo perso tempo. Sì, abbiamo perso anche molta energia, denaro nel fare dei progetti così di intercultura, che alla fine non hanno mai lavorato sull'essenziale, sul educare alla complessità, ecco, alla complessità delle cose, a non semplificare, a non cercare risposte semplici per cose che di fatto sono complicate. Ha rivalutato in qualche maniera la scuola di suo nonno e di suo padre, che facevano loro, che imponevano dall'alto? No, non l'ho rivalutata. Io mi sono liberato dalla scuola. Io quando sono entrato a fare l'insegnante ero ribelle contro la scuola di mio padre e di mio nonno, perché ero ribelle contro ogni dittatura, per me era l'imposizione, era una cosa inaccettabile. Soltanto che entrando ho trovato che c'erano ancora i vecchi insegnanti, mio papà era ancora direttore di una scuola media, quindi ho lavorato sono stato collega del mio padre per un po' di anni, quindi c'era la loro concezione che faceva rigare dritto i ragazzi. E noi che il bastone non lo usavamo più perché intanto era vietato e poi ci hanno spiegato che era una cosa sbagliata e qualcuno di noi lo faceva come me perché convinto, qualcuno lo faceva perché era vietato. Fatto sta che il bastone non ce l'avevamo più, però altro non ce l'hanno dato. E quindi lei dice gli studenti che escono dai quartieri poveri a Parigi e Londra, ma temo anche in Italia, dalle periferie, insomma, alla fine escono che sanno molto poco e allo stesso tempo non siamo riusciti a creare quella interculturalità che si speravano. Allora, cosa fare se non serve più il bastone? Come fare per lavorare sul mondo, i suoi cambiamenti, le sue paure, come diceva lei? In che maniera? Io credo che la scuola ha ancora un ruolo da giocare, ma a condizione che questa scuola sia pensata per i poveri. Quindi fare una scuola, questi casermoni che esistono nelle periferie del mondo, in cui migliaia di ragazzi sono parcheggiati lì in attesa di avere 16 anni per poterli buttare via con la coscienza tranquilla che hanno fatto la scuola dell'obbligo, allora siamo a posto. E avere questa coscienza tranquilla perché intanto abbiamo fatto il nostro dovere, la scuola è uguale, i programmi sono uguali con i quartieri ricchi, questo è un modo di fare le cose semplicemente per la facciata. E allora secondo lei Koulibaly e i due fratelli che hanno assaltato la sede di Charlie Hebdo sono prodotti di questa scuola dell'interculturalità, sì, del tentativo di questa scuola, ma di questa non scuola. Di questa non scuola, sono prodotti di questa non scuola. Non hanno ricevuto mai niente. Questa gente non ha avuto diritto a un'educazione di qualità e poi si è ribellata, è diventata terrorista, è diventata antirepubblicana. Questa gente non ha mai avuto nulla. Che differenza c'è con le periferie italiane, secondo lei? Ecco, a quell'epoca lì avevo scritto una riflessione, qualcuno mi diceva, lei pensa che le rivolte delle banlieue possano arrivare in Italia? Io ho detto, le rivolte delle banlieue sono già in Italia, perché in quel momento lì una volante della polizia ha seguito due ragazzini dal centro di Napoli fino a Scampia e la popolazione lì è uscita, li hanno cacciati via con una sassaiola fitta. E questa è la rivolta delle banlieue. Scampia è una banlieue, è un luogo isolato dal centro della città in cui un'intera popolazione è lasciata nell'ignoranza, nella paura, nell'assenza totale dello Stato, tranne che ogni tanto per reprimere. Quando lei ha scritto il suo pezzo per Internazionale, si chiude proprio dicendo questa notte invernale che sa di primavera, speriamo non araba. A parte l'esperienza tunisina che qualche frutto interessante sta dando, speriamo che vada avanti in questo senso, il resto è finito tutto in una desolazione totale. Io sono per la libertà e quando i ragazzi delle capitali arabe sono usciti per chiedere libertà, e ovviamente sono stato dalla loro parte. Però all'epoca la domanda era cosa può fare l'Occidente, cosa può fare l'Occidente. E io dicevo, se volete veramente fare qualcosa per aiutare le rivoluzioni arabe, non fate proprio nulla. Le monarchie del Golfo, ovviamente, quando hanno visto questo pericolo di democratizzazione dei paesi arabi, hanno mobilitato miliardi di dollari per gonfiare i movimenti islamisti, gonfiare i movimenti jihadisti, e questo ovviamente con la collaborazione e l'accordo pieno dei paesi occidentali, delle potenze della NATO, perché nessuno vuole il mondo arabo democratico. Ci vuole un mondo arabo in cui insomma le rotte del petrolio eccetera siano sotto controllo di queste mafie, di questi primitivi, di questi governi un po' anche buffi, un po' così ridicoli, o al limite di queste orde di sgozzatori barbuti, ma... Cioè lei dice che fanno comodo qualcuno, questi sgozzatori barbuti? Io credo che fanno comodo, sì, fanno comodo a tanti. Qual è stata la reazione che ha avuto al suo scritto su Internazionale? Ci sono state delle reazioni? Ho ricevuto tantissime reazioni. In questo momento tutti hanno i sensi un po' così svegli e quindi c'è stata una fortissima reazione. Sono stato, cioè la mia bacheca ha dovuto bloccarla perché tutti postavano reazioni. Ho dovuto rifiutare, per esempio, l'invito di non so quanti talk show televisivi. Oh, Aisha, Aisha, c'è nostalgia per i gusti, le cose che ci hanno fatto piacere quando in quella terra eravamo. E io ho una nostalgia per certi cibi, certo che ho nostalgia. Alcuni riesco a ricrearmeli perché io per fortuna cucino abbastanza bene, e quindi alcuni riesco a ricrearmeli in esilio, alcuni li ritrovo. Ogni tanto quando ritorno, alcuni sono persi spero non per sempre, ma sono persi. In Algeria perché anche lì è arrivata l'agricoltura intensiva, è arrivata la carne cresciuta in poche settimane, la carne congelata che arriva da tutte le parti. La cucina dell'Algeria è tipicamente araba, con piatti tipici come il couscous, il mezwi e varie tagine, ragù di carne o pesce, ma è anche fortemente influenzata dalle cucine dei paesi con cui l'Algeria è venuta a contatto, a partire dalla Francia e dalla cucina italiana, oltre che da quella turca e berbera. Ad esempio, vista la grande produzione di frumento, si mangia abitualmente la pasta, generalmente condita con la salsa harissa, una salsa prodotta con peperoncino fresco, aglio e olio di oliva. Per il resto, dagli antipasti ai dolci, è un susseguirsi di ricette dai nomi esotici e dai sapori decisi, come ad esempio le lenticchie piccanti Abs Biders, o le corna di gazzella, Guarn Ogzal, o la gustosissima bevanda alla cannella, Serbat. Come condimento si usa l'olio di oliva, sposato all'aglio e ai sughi bianchi, mentre l'aroma dell'acqua di fiori d'arancio è aggiunta a dessert e dolci. Parlando di Algeria, inevitabilmente viene in mente il Ksekhsou, meglio conosciuto con il nome di couscous, il piatto unificante dell'area del Maghreb. Ricetta molto appetibile è il pollo al pistacchio, realizzato con una farcitura di cipolle, frittaglia di pollo, riso, uvetta, uova sode, pistacchio, sale e pepe. Alquanto saporiti sono i cetrioli al forno, un composto di cetrioli, formaggio grattugiato, prezzemolo, uvetta e pane. Non meno gustosi, i peperoni ripieni all'algerina, simili a quelli usati nell'Italia meridionale, con la variante costituita dalle mandorle tritate e dalla panna fresca. I Jabashego e molti altri islamici dicono questo non è Islam, quello degli attentati. Lei dice, invece, io dico che anche questo è Islam, ha scritto. L'Islam è di tutti, buoni e cattivi che siano. Lei lo dice, tra l'altro, da laico, da non credente. Io lo dico da non credente, sì, lo dico da non credente, ma lo dico da persona che lavora sulle fenomeni di razzismo, di intolleranza da più di 20 anni. Questo non è semplicemente quel meccanismo che si fa per allontanare tutto quello che è brutto da noi stessi, cioè quando si tratta quello che non ci piace di dire questi non sono esseri umani, non è altro che una maniera di scappare dalle responsabilità. L'Islam invece è anche violento? L'Islam è anche violento, certo che l'Islam è anche violento. L'Islam è tutto quello che i musulmani ne vogliono fare, così anche il cristianesimo, così anche il comunismo, così anche l'ebraismo è altrettanto. Cioè non è che l'Islam non ha inventato l'integralismo e la violenza, ma l'Islam non è tutto purezza e bellezza. Ecco, è un fenomeno umano, è un pensiero umano, è quello che gli uomini vogliono, ne fanno, ecco. Lei avrà visto che dopo aver detto Je suis Charlie Coulibaly, il comico francese Dieudonné è stato arrestato. Cosa ne pensa? Cosa dico? Dico che questo circo mediatico della spettacolarizzazione delle false emozioni questi giorni ci porterà a tutti gli eccessi che possiamo immaginare, chiusura della libertà di espressione su certi temi, giustificato come nel caso di Dieudonné da sostegno al terrorismo, chiusura di molti campi, insomma, di espressione politica e probabilmente anche nuove guerre che non se ne finisce più da 40 anni. Grazie a Karim Metref per essere stato con noi questa sera. Buona serata. Buona serata a voi. Grazie anche a tutti voi per l'ascolto, in regia Gianmarco Ferronato, e ci risentiamo sabato prossimo sempre su queste frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of